sono le ore 18:28 di lunedì 9 dicembre 2024. Sulla tangenziale est, proprio nel punto in cui Fantozzi prova a prendere l'autobus al volo, di ritorno dalla proiezione del documentario di Adele Tulli, Real, al nuovo cinema Aquila, una nuova uscita del cinema documentario italiano, devo dire illuminante il film, illuminante anche la figura di questa regista che porta uno sguardo nuovo sul mondo, mi verrebbe da dire, di tutta la trasformazione, direi ormai anche antropologica, che ci riguarda con l'avanzare della transizione digitale. Il film si intitola Real ed è un tentativo di gettare uno sguardo appunto innovativo sulla famosa dicotomia reale-virtuale, che riguarda non soltanto naturalmente la tecnologia, ma riguarda anche per esempio il ruolo dell'immagine, il ruolo delle estetiche, il ruolo dei linguaggi di questa nuova generazione che addirittura si candida a dar vita ad una speciazione, quindi a una sostituzione della specie, proprio per la capacità di scrivere un nuovo mondo attraverso le nuove tecnologie e di viverlo, scriverlo e viverlo. Direi più un mosaico che un affresco, per usare le parole della stessa regista. Questo film mi ha ricordato per esempio certe opere di cinema d'artista, come quelle di Cao Fei, che a cavallo tra cultura orientale e cultura occidentale già negli ultimi, diciamo, 10 anni aveva tentato un approccio diverso rispetto a questa trasformazione, anche raccontando soprattutto come internet cambia il mondo fisico, ingigantendo e rendendo pervasivi processi che pensavamo residuali, come i processi della logistica. Io ricordo per esempio Asia One, un film fantastico di Cao Fei, se non sbaglio del 2018, non vorrei sbagliarmi, forse 2019, che fu proiettato al Maxi durante la sua mostra di sempre di 2-3 anni fa, che appunto raccontava le storie d'amore in questo universo che fa parte del mondo fisico, il mondo della logistica ingigantita dallo spostamento di cose, merci, persone, abilitato naturalmente dalla pervasività delle tecnologie dell'informazione. Qui invece nel documentario di Adele si vedono altri aspetti, altre sfaccettature di questa trasformazione antropologica, attraverso appunto più vicende che coinvolgono più tecnologie. Diciamo non si cercano risposte, si cercano soprattutto di sollecitare le domande. È un film che non giudica, questo è un grandissimo pregio, in un dibattito che invece è tutto schiacciato tra utopia e distopia, tra pochi residui tecno-entusiasti e molti popolarissimi neoluddisti. È un film che dice tante cose e soprattutto ce le tira fuori. Quindi consiglio a tutti, quando insomma la distribuzione arriverà in modo un po' più pervasivo, per ora insomma il film è uscito da poco, si è visto in poche sale qui a Roma al Cinema Troisi e adesso al nuovo cinema Aquila. Insomma, spero che approdi su qualche piattaforma di streaming, spero che sia più facile vederlo. Io sicuramente chiederò ad Adele di mostrarlo per esempio ai ragazzi del mio corso alla NABA, dove tra l'altro anche lei tra qualche tempo farà parte del corpo docente. Quindi per il resto, devo dire che anche tornare a casa percorrendo la tangenziale di Fantozzi è un salto di 50 anni, anche quella è una trasformazione antropologica, io però mi sento molto ancora Fantozzi dentro, se permettete.